Innanzitutto grazie a Rav Ronny. E vorrei solo fare con tutti voi un piccolissimo lechaim. Qui c'è un poco di lechaim. Ok, manca, basta questo goccio qua. לחיים, לחיים ולברכה. E oltre a ringraziare Rav Ronny, vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti, qualcuno è venuto da molto lontano, da Milano, ma alcuni di noi siamo venuti non molto più vicino, da Monteverde Colli Portuensi, un bellissimo gruppo stasera, un grande applauso. Allora, solo due parole in ricordo di una grande figura dello Shochet, come era chiamato con affetto Rav Eliyahu Hazzana, che ho avuto l'onore di conoscerlo, di vederlo da quando ero un bambino molto piccolo. Non so se sapete che lui era molto presente al Tempio di Via Balbo per molti anni e quindi ho avuto questa opportunità. In generale, quando si ricorda una persona, lo si fa non tanto per raccontare delle storie, ma perché i nostri maestri ci insegnano che bisogna ricordare una persona per trarre delle lezioni di comportamento nella nostra vita, dal comportamento e dagli insegnamenti di questa persona. Allora, innanzitutto, essere uno shochet. Cosa significa essere uno shochet? Non è una carriera, non è un conseguire una laurea in un determinato campo, essere professionisti in questa professione, poter svolgere tecnicamente il ruolo in maniera corretta e allora si diventa uno shochet. No, uno shochet non è questo. Uno shochet, ed è una cosa che trova un'espressione pratica nello Shulchan Aruch proprio, quindi un aspetto molto pratico della legge ebraica. Uno shochet deve essere una persona Yerei Shamayim, una persona timorosa del cielo. Come si definisce una persona che è timorosa del cielo? La gente normalmente è timorosa di altre persone. Cioè il modo in cui una persona si comporta davanti ad altre persone è diverso di come si comporta quando è da solo, giusto? È normale. Perché? Perché una persona ha un sentimento naturale di timore, tra virgolette, non significa paura, però di considerazione di chi lo guarda, di chi lo vede. Quindi una persona dentro la stanza propria si comporta in una determinata maniera, ma se ci sono altre persone si comporta in un'altra maniera. Questo non è timore del cielo, è timore delle persone. Timore del cielo significa che un sentimento simile la persona sente anche quando non c'è nessuno, perché sa che dal cielo lo guardano. Allora, Yerei Shamayim, una persona che è timorosa del cielo, forse si può definire dicendo che una persona che si comporta in una determinata maniera, indifferentemente se altre persone lo vedono o meno, questo è uno Yerei Shamayim. Allora non si può, noi non abbiamo, esseri umani, noi non abbiamo la possibilità di guardare dentro il cuore di una persona e sapere se è Yerei Shamayim o quel livello di Yerei Shamayim, che livello di timore del cielo ha, perché ci sono infiniti livelli, ogni persona è diversa dall'altra. Ma possiamo guardare il comportamento di una persona e capire secondo questo se egli riesce a mai o meno, più o meno. Allora, rapportandolo al ruolo di uno Shohet, senza entrare adesso ancora nel ruolo, nella persona specifica, entrando nel ruolo di uno Shohet deve essere un Yireh Shamayim per un motivo molto semplice. Se una persona scrive, per esempio, delle Mezuzot, anche lì è chiaro, vorremmo che chi scrive le Mezuzot sia un timoroso del cielo. Però, in pratica, possiamo guardare la Mezuzah che ha scritto e vedere se in pratica è una Mezuzah valida o meno. Possiamo valutare la calligrafia, possiamo valutare se le lettere rientrano in ciò che è richiesto dalla Halakha, eccetera. Per uno Shohet, la maggior parte delle persone non possono valutare il lavoro dello Shohet. Molto dipende da quello che il Shohet sente sul momento, oltre al controllo stesso successivamente, ma la lama, il coltello, il taglio e il modo che lui sente che il coltello funziona nel momento, si muove nel momento del taglio, sono cose che solo lui sa. E lui deve dire, è kasher o è taref? Lo sa lui e lo sa Kadosh Baruch Hu. Significa tu ti appoggi alla onestà e alla Yirat Shamayim di questa persona. Per questo uno Shohet deve essere uno Yirat Shamayim. Allora, di nuovo, non possiamo entrare nel cuore delle persone. Solo c'è scritto Hashem Yireh Lalevav, solo il Signore vede il cuore. Ma possiamo vedere il comportamento di una persona. Cosa fa una persona nel suo tempo libero? Se uno Shohet fosse uno che ha una semplice carriera, allora lavora da che ora a che ora, e poi il tempo libero, il tempo personale, fa quello che è il suo hobby, la sua passione, quello che vuole fare. Allora, il nostro Shohet, Rav Eliyahu Azana, anche lui nel suo tempo libero faceva il suo hobby e la sua passione, quello che lui voleva fare. Che cos'era? Studiare la Torah e insegnare la Torah. E da qui possiamo capire che si tratta di una persona Yireh Shamayim. Per collegare all'evento di stasera, alla data di stasera, gli Yutet, il 19 di Kislev, ho visto diversi anni fa una registrazione video di un incontro di Yutet Kislev con il Rebbe nel 1972-71, che solo ultimamente è stato redatto, sono stati redatti i discorsi del Rebbe di quell'incontro in una maniera chiara in ebraico e messi per iscritto. Fino ad ora non erano ancora stati redatti. E quindi mi ricordo, l'ho letto ultimamente, mi ricordava che l'avevo anche visto sul video un discorso che Rebbe fece del giorno del 19 di Kislev, che è collegato a questo contesto. Di cosa si tratta? È un discorso molto lungo, vi porto solo due parole di questo discorso. Si citava un detto dei nostri maestri nella Gemara, nel Talmud, nel trattato di Sanedrin. I maestri dicono, esiste un versetto nel libro di Mishlei, dei Proverbi, che è un versetto che molti conoscono, Sheker hachen vehevel hayofi isha irat Hashem hi titalan. Cosa significa? La grazia, il fascino è falso, falsa. Hevel hayofi, la bellezza è futile. Irat Hashem, isha irat Hashem, si parla di una donna che è timorosa di Dio, hi titalan. Questa è la donna che è lodata. Cosa sta dicendo questo versetto? Tra l'altro, quando è che recitiamo questo versetto? Chi lo sa? Prima del? Vero? Però anche venerdì sera, prima di Kiddush, si dice Eshet Chayil, vero? Ok, allora il versetto sta dicendo l'aspetto importante di una persona, della Eshet Chayil, della donna di valore, qual è? È la sua Yirat Shamayim, il suo timore del cielo. Non è la grazia, non è la bellezza, questi sono aspetti meno importanti. La cosa più importante è il timore di Hashem. Ok. Viene la Gemara nel trattato di Sanedrin e dice: Shekerachem, falsa è la grazia, falso è il fascino, questa è la generazione di Moshe Rabbeinu. Futile è la bellezza, questa è la generazione di Yehoshua, il successore di Moshe Rabbeinu. Ishai rat Hashem iti talal, qual è la generazione che invece è lodata? La generazione di Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai è uno dei maestri più grandi della Mishnah, una delle persone più citate nella Mishnah. E cosa c'è di così grande della sua generazione rispetto a quella addirittura di Moshe Rabbeinu e di Yehoshua ben Nun? La Gemara dice che nella sua generazione si studiava la Torah nonostante grandissime e moltissime difficoltà, fino al punto che 6 allievi si mettevano a studiare la Torah e non avevano che un vestito per coprire tutti e 6 gli allievi. Per descrivere quanto era difficile la situazione. Ok, però non è ancora così chiaro cosa sta realmente dicendo qui la Gemara, perché si contrappone il fascino, si contrappone la grazia, si contrappone la bellezza a cosa? Al timore di Hashem, dicendo che questo è falso e questo è lodato. Non si capisce la contrapposizione. O dici una cosa è falsa e una cosa è vera. Cosa c'è di falso nella Torah che si studiava nella generazione di Moshe Rabbeinu? Non era una Torah vera? Cosa c'è di problematico nella Torah che si studiava nella generazione di Yehoshua ben Nun? E cosa c'è di diverso nella Torah che si studiava nella generazione di Rabbi Yehuda? Qual è il punto che fa sì che ci sia questa differenza e che una cosa la consideriamo falsa e l'altra la consideriamo valida? Allora, ripeto, è un discorso molto lungo, ma un punto vi riporto. Il Rebbe dice: esistono delle cose che noi facciamo per il fascino della cosa. Il fascino di una cosa ti colpisce, ti conquista. Tu fai la cosa perché sei stato conquistato dal fascino della cosa. Sei stato come travolto dal fascino o dalla bellezza o dalla grazia di quella cosa. È quasi come se dicessimo che non hai avuto davvero una scelta. Hai dovuto alzare le mani per forza. Era così bella quella cosa, era così graziosa. Non c'è stato un altro pensiero in quel momento. Non è stato possibile pensare a qualcos'altro. Sei stato travolto e quindi sei stato coinvolto. Ma non puoi dire che ci sei davvero. Sei stato messo in quella situazione. Cosa significa? Ai tempi di Moshe Rabbeinu, studiare la Torah era dato per scontato. Immagina se tu fossi ai piedi del Monte Sinai e fossi testimone del momento del Matan Torah, del dono della Torah. Ma non solo quel momento, tutti i momenti che sono susseguiti durante i 40 anni che sono stati nel deserto, dove tutti gli aspetti e tutte le esigenze materiali erano coperte, nessuno doveva pensare a nulla, si poteva pensare solo allo spirito, al legame con Akadosh Baruch Hu. Era un momento di grandissimo fascino, come quando sei travolto dal carisma di una persona. Non può essere definito emet, verità. Perché? Perché una cosa è definita verità quando è messa alla prova e rimane uguale. Qui non erano stati ancora sottomessi ad una prova. Era ancora tutto concesso a loro, come per dire gratuitamente. Allora non si può definire verità, emet. Lo definiamo Sheker. Per il momento è ancora nel falso. Falso cioè non confermato. In maniera simile si spiega il fatto di Yoshua. Ai tempi di Yoshua le cose non erano così elevate come ai tempi di Mosè, ma i maestri dicono se Mosè era simile al sole, Yoshua era simile alla luna. Non è lo stesso livello, ma c'è comunque qualche paragone, c'è un legame. Era comunque un momento particolarmente importante spiritualmente parlando. Allora la Gemara dice lì, Mosè è un momento di falsità, il loro studio della Torah. Yoshua è futile, Hevel. Non si sa ancora dove stiamo davvero. Dove c'è la conferma? Rabbi Yehuda, Rabbi Ilai. Lì c'è stata la conferma. Lì c'è stato un momento in cui la Torah si è studiata nonostante le grandissime difficoltà e con un altissimo livello di sacrificio, Mesirut Nefesh, autosacrificio. In quella situazione qualcuno avrebbe potuto dire: scusami, ma perché stai studiando la Torah? È pericoloso, non puoi farne una carriera, anzi ti rovina altre situazioni. Perché studi la Torah? Non c'è una risposta logica. Yirat Hashem. Perché Hashem vuole che studi la Torah. Ma non ha senso. Cosa devo fare? Più forte di me. Yirat Hashem. Cioè, bisogna studiare la Torah, io la studio. Può darsi che questo mi metta in grande difficoltà, può darsi che questo mi metta addirittura in pericolo. Non fa niente. Non è quasi come, certo che è una mia scelta, però faccio sì che non sia, che quasi come non sia una mia scelta. Lo faccio perché lo devo fare e basta, perché questa è la verità. Allora si applica la parola emet, verità. Si conferma che Am Israele ha davvero accettato la Torah. In quel discorso il Rebbe lo diceva in un contesto degli ebrei dell'Unione Sovietica. Lo diceva in quella sera, il 19 Kislev del 71, era presente un gruppo di Hasidim che da poco erano usciti dall'Unione Sovietica. E quindi parlava in questo contesto. E diceva: voi avete studiato la Torah senza magari avere un maestro, senza magari avere i libri adatti, proprio senza nessun metodo, senza nessuna logica. Perché Yirat Hashem? Questo è il livello più alto di studio della Torah. Ma io lo leggo anche alla figura dello Shochet, perché Rav Eliyahu Zana cosa ha fatto? Come dice la Mishnah, Heve gole le makom Torah, vai anche ad esiliarti per studiare la Torah, cioè vai via dal tuo luogo, cerca un luogo in cui si studia la Torah, senza dire vorrei studiare la Torah, però non ho la possibilità perché non c'è qui dove io mi trovo, non c'è una yeshiva, non c'è un insegnante, non c'è questo, ok, allora non è colpa mia, mi scarico la responsabilità. La Mishnah dice: non hai questo lusso di poterti scaricare la responsabilità, non c'è nel tuo luogo, vai in un altro luogo. Ed è una cosa molto complicata, non semplice, non facile. Lui l'ha fatto, è andato via dal suo luogo, è andato via dalla sua famiglia e è andato a studiare in Francia, come avete sicuramente sentito, letto, conosciuto la storia. Ed ha acquisito la Torah in condizioni, non dico sei allievi in una veste come i tempi di Rabbi Yehuda, Rabbi Ilai, però chi conosce la situazione in quella yeshiva specifica dove anni dopo ho studiato anche io, in Francia, vicino a Parigi, in quell'epoca non era molto meglio il, diciamo, la condizione materiale non era molto meglio, non erano lì per nessun motivo di lusso o di buona gastronomia francese, proprio neanche lontanamente, era solo per studiare Bemesirut Nefesh, con sacrificio, che qualsiasi cosa sia richiesta, come espressione di nuovo di Rachamai. E questo filo conduttore di Rachamaim l'ha portato con sé, l'ha applicato nella sua vita, fino a diventare un esempio di Rachamaim. Per concludere, ci sono due aspetti in questo discorso che facevo prima. È vero che la bellezza, il fascino, non ti confermano la verità della cosa, l'autenticità della cosa. L'autenticità della cosa è provata quando è messa alla prova. Dall'altro canto, se non ci fosse stata prima quella fase, cioè la studiata orata è studiata con carisma, con fascino, è difficile arrivare alla seconda fase, quella della Messilut Nefesh. Cioè diventa una base in realtà, servono entrambe le fasi. E quindi una persona come lo Shochet, che ha studiato la Torah con Messilut Nefesh, ma ha anche goduto lo studio della Torah, non è che farlo in maniera con sacrificio, essere messi alla prova, significa che sia come una cosa forzata. In questo caso, come dovrebbe essere, è stata una cosa goduta e voluta, una passione, come ho detto prima. È una passione che non conosceva limiti, perché chiunque con il quale veniva un contatto era un potenziale allievo. E che tra l'altro, e tra parentesi, lui non li vedeva come allievi, li vedeva come compagni di studio. Qualcuno con cui studiare, non un professore che deve impartire delle lezioni, qualcuno con cui studiare la Torah. Per lui era la cosa più naturale in assoluto. E questa è un'espressione non solamente della Yirat Shamayim in generale, ma è un'espressione, secondo me, di Ahavat Israel, di un vero amore incondizionato verso il prossimo. Perché dove si esprime l'amore tra una persona e l'altra? La condivisione. Quando tu vuoi bene a qualcuno, hai un sentimento naturale di voler condividere con quel qualcuno quello che è tuo. Se vuoi tenerlo per te, significa non c'è un vero affetto. La persona nei confronti della quale senti affetto, amore, è una persona con la quale vuoi condividere quello che hai. Questa espressione di voler condividere con altri quello che uno ha studiato è una espressione d'affetto. Guarda che ho studiato questa cosa, perché non la studi anche te? Se io l'ho studiata, se io la conosco, non è perché io sono speciale o particolare, è perché io la potessi condividere. Quindi queste bellissime vignette di Ahavat Israel, di amore verso il prossimo, di Yirat Shamayim, di timore del cielo, sono delle cose che sono, uno potrebbe pensare, difficili da imitare, non facili da replicare. Invece i maestri ci insegnano, citano il versetto di Shlomo HaMelech, Ve'achai yiten libo, dobbiamo prendere a cuore. Quindi in minima parte ognuno di noi può, potrebbe e può anche rientrare in questo tipo di ottica. Innanzitutto prendere una lezione, come dicevamo prima, di Yirat Shamayim. Yirat Shamayim significa quello che vuoi fare lo faresti anche davanti a qualcun altro? Se la risposta è no, allora renditi conto che c'è qualcun altro. HaKadosh Baruch Hu è sempre presente. E la seconda cosa, quella della Ahavat Israel espressa nella condivisione. Ho qualcosa, la condivido. Con chi la condivido? Con chi voglio bene. A chi voglio bene? Ahavat Israel, tutto Am Israel. Il primo che ti viene incontro di Am Israel, condividi quello che hai studiato. Condividi un tuo patrimonio spirituale con qualcun altro. E vedrai che questo ti farà diventare anche a te più ricco. Questa concludo, questa espressione di Avat Israel, dove il voler bene a tutti trova riscontro nell'essere voluto bene da tutti, l'abbiamo visto con lo Shochet, purtroppo l'abbiamo visto purtroppo perché è venuto a mancare, per questo abbiamo visto una cosa. Cosa abbiamo visto? Questa serata è stata dedicata alla sua memoria, Leilui Nishmato. Ma non è l'unica cosa che è stata fatta Leilui Nishmato. La comunità ebraica al Tempio Maggiore ha fatto un grande limud, sempre Leilui Nishmato dello Shochet. I suoi allievi con cui negli ultimi anni ha studiato nella zona di Viale Marconi hanno fatto un ulteriore evento per ricordare la sua memoria e per studiare da lui Leilui Nishmato. Questo cosa indica? Per me questa è una cosa bellissima, perché indica che era voluto bene da tutti, indifferentemente. Indica che tutti volevano in qualche maniera fare qualcosa per trarre delle lezioni dalla sua vita, per fare una cosa per la sua neshama. E questo per me è una cosa bellissima. Indica che una persona che non conosceva limiti all'interno di, non conosceva confini all'interno di Am Israel. Una bellissima cosa. Allora, le lezioni che possiamo trarre da questo sono enormi, ma non dobbiamo alzare le mani davanti a lezioni enormi e dire noi siamo piccoli. Le lezioni enormi sono per giganti, non per noi. Possiamo passo per passo anche noi rientrare un poco in questi comportamenti, e che sia veramente Leilui Nishmato, che sia per l'aliyah della sua neshama, ma anche per il miglioramento della espressione delle nostre neshamot in questo mondo. Exactly.